Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'appuntamento fisso della sera, ormai molti lo sapranno, altri lo sappiano, da ora in poi Roberta Giordano con voi fino alle 22 più o meno per raccontarvi tutte le sere la giornata, come andate, i fatti principali e poi per chiacchierare con diversi ospiti di alcune delle notizie della giornata, anche quelle che magari non sono sempre in primissimo piano. In primo piano invece, devo dire, sono due rivelazioni, due frasi a sorpresa. Una lo è sulla politica italiana di pochi, forse due ore fa, un'altra è una rivelazione che è una profezia che si è poi avverata, tragica, drammatica. Ma adesso, prima di addentrarci poi nei fatti, vi ricordo quali sono i titoli dei fatti principali. La prima appunto è questa, con cui per esempio anche adesso titola il Corriere della Sera online: Ecomafia, la profezia di Schiavone, il pentito, cioè nel 97 disse moriranno tutti di cancro, cioè aveva profetizzato evidentemente sapendo dei rifiuti tossici, di questo business enorme delle mafie, che nel casertano molte persone negli anni sarebbero morte, come effettivamente è stato e continua ad essere, di cancro. E poi la politica, con una dichiarazione che si può ben definire a sorpresa del ministro del PDL Quagliariello, che rispondendo a un giornalista a Napoli su che cosa immaginava adesso come possibile maggioranza, Quagliariello ha risposto: a quale maggioranza stranissima penso? Mi sembra di essere stato chiaro, qualcosa che possa coinvolgere anche il Movimento 5 Stelle. E Berlusconi dice la partita è ben lontana dalla fine, le colombe del PDL si appellano al presidente del Senato Grasso e gli chiedono che il voto non sia palese, il voto su Berlusconi. Poi c'è il problema abitativo, movimenti per la casa in piazza, oggi scontri a Roma, dal governo 140 milioni per l'emergenza abitativa. Problemi per l'Italia, dal CDA fiducia nel futuro, ma gli utili nel frattempo vanno giù nel trimestre, e per Air France la compagnia vale zero, il presidente Colaninno annuncia l'addio. Calcio questa sera, la Roma in campo contro il Chievo, vogliamo una decima vittoria, dice l'allenatore Garcia. Iniziamo allora raccontando questa giornata, partendo dalla dichiarazione del ministro PDL Quagliariello, il capolista dei governativi, cioè dei parlamentari del PDL, pronti da qualche giorno, da qualche settimana a lasciare il PDL Forza Italia, quindi anche Berlusconi, per sostenere il governo. Cosa ha detto Quagliariello? Come vi dicevo, ha detto, rispondendo a un giornalista a Napoli: a quale maggioranza stranissima penso? Mi sembra di essere stato chiaro, qualcosa che possa coinvolgere anche il Movimento 5 Stelle. Che ne pensate? C'è sempre la pagina pronta di Effetto Notte trattino Roberta Giordano per i vostri commenti. Cosa pensate di questa possibile maggioranza inedita, almeno da un punto di vista di un componente del PDL, come in questo caso Quagliariello, di pensare di poter fare una maggioranza col Movimento 5 Stelle? Berlusconi nel frattempo dichiara: una rapida e positiva conclusione della dialettica che si è avviata in questi giorni verso il rilancio di Forza Italia ci consentirà di poter convocare il Consiglio nazionale nel più breve tempo possibile. Resta intanto la tensione nella maggioranza dopo la decisione del voto palese ieri sulla decadenza di Berlusconi. 22 senatori PDLini hanno firmato un appello rivolto al presidente del Senato Pietro Grasso affinché la preferenza si svolga a scrutinio segreto. Mentre le colombe chiedono al presidente del Senato Piero Grasso il voto segreto sulla decadenza, Silvio Berlusconi riunisce i falchi a Palazzo Grazioli. 22 innovatori che fanno capo ad Angelino Alfano vogliono che la seconda carica dello Stato non ascolti il parere della Giunta e che ci sia il voto segreto a Palazzo Madama. Berlusconi poi commenta: la sinistra ha commesso un autogol, la partita non è finita perché la sentenza che mi ha condannato è fondata su delle falsità. Il cavaliere incontra poi falchi a Palazzo Grazioli, tra questi anche Raffaele Fitto, che poco prima aveva commentato così la decisione della Giunta. Si stravolgono e calpestano i regolamenti e anche una consuetudine parlamentare perché si parla di Berlusconi, questo è il tema e non è accettabile. Mi sembra che il Partito Democratico con questi atteggiamenti stia segando il ramo sul quale è seduto il Presidente del Consiglio. Il Cavaliere sarebbe pronto a strappare, ad aprire la crisi di governo, una iattura per il PD, così Guglielmo Epifani. Si ritiene che questa è la questione senza la quale il governo non può andare avanti? Lo si dica e il centrodestra si assuma la sua responsabilità di fronte al Paese. Intanto il Movimento 5 Stelle chiede che sia calendarizzato il voto per il 5 novembre in aula. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E oggi si è manifestata con particolare evidenza in tutti i sensi l'emergenza abitativa con gli scontri oggi a Roma nel corso della manifestazione promossa dai movimenti per la casa. Nel centro di Roma sfociano di nuovo in disordini le proteste dei movimenti per il diritto alla casa. Poco dopo l'una il loro corteo ha cercato di uscire dal percorso concordato per raggiungere la sede della conferenza Stato-Regioni, dove era in corso una riunione straordinaria dedicata proprio all'emergenza abitativa. Gli antagonisti hanno assaltato un blindato e lanciato uova e petardi contro le forze dell'ordine, che però li hanno respinti. Bilancio dei tafferugli è di una quindicina di contusi e 8 fermi. La manifestazione si è poi conclusa in modo pacifico di fronte a Montecitorio, dove gli antagonisti hanno spiegato le ragioni della loro protesta. Noi siamo qua per dire che il piano casa comunque che faranno non ci va bene, i soldi che stanzieranno saranno sicuramente sempre troppo pochi. Vogliamo portare ovunque le nostre ragioni e le nostre lotte, perché sono giuste, perché questi governi dell'austerity se ne devono andare. Noi chiediamo il blocco degli sfratti. Le cifre parlano di 290.000 sfratti, 7.000 a Roma, gli altri distribuiti nelle grandi città e in tutti gli altri comuni italiani. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E al termine della conferenza unificata, il ministro Lupi ha annunciato che dal 1 gennaio partiranno 2 fondi per far fronte appunto all'emergenza abitativa. Un primo sarà costituito da 100 milioni di euro per il supporto del pagamento degli affitti per i non abbienti, l'altro invece verrà dotato di 40 milioni per le cosiddette morosità incolpevoli. E vi ricordo che sul Sole 24 Ore di domani si parla proprio delle tasse sulla casa e il rischio dei conti dei comuni. C'è un caos dei bilanci, insomma, che potrebbe ricadere sui contribuenti. Il fenomeno, possiamo dire, è tutto italiano, di un'imposta quasi abolita, no? L'IMU deve essere abolita, ma in continua crescita, che fa nascere una domanda: chi paga a questo punto? I comuni sperano che sia lo Stato, compensando quindi i mancati versamenti ai comuni, come è avvenuto per l'acconto. I contribuenti temono che a pagare siano invece i comuni e quindi in ultima istanza loro stessi, i contribuenti. La partita vale quasi 3 miliardi, insomma, se volete sapere un po' di più su questo, domani Il Sole 24 Ore. E passiamo al processo sulla trattativa Stato-mafia. Il Presidente della Repubblica, Napolitano, ha indirizzato una lettera al Presidente della Corte d'Assise di Palermo, con la quale ha sottolineato che sarebbe ben lieto di dare, ove ne fosse in grado, un utile contributo, dice, all'accertamento della verità processuale, indipendentemente dalle riserve sulla costituzionalità dell'articolo 205,1 del Codice di Procedura Penale espresse dai suoi predecessori. Il Presidente, si precisa in una nota, ha nello stesso tempo esposto alla Corte però i limiti delle sue reali conoscenze in relazione al capitolo di prova testimoniale ammesso, cioè appunto nel corso del processo sulla trattativa Stato-mafia. Ma occupiamoci anche di Alitalia e delle sue difficoltà. Il Consiglio di amministrazione tornerà a riunirsi il prossimo 12 novembre. La compagnia aerea, in ogni caso, è di nuovo nella bufera. Futuro di Alitalia nuovamente appeso a un filo dopo l'azzeramento del valore delle azioni in bilancio da parte di Air France. Il presidente della compagnia Roberto Colaninno ha annunciato il suo addio dopo aver sostenuto la ricapitalizzazione. Annuncio che non sarò disponibile ad assumere nuovamente incarichi di vertice, ha detto, resterà però azionista. Intanto il CDA della compagnia ha approvato i dati del terzo trimestre, chiuso con un risultato netto di 7 milioni, in calo dall'utile di 27 milioni dello stesso periodo 2012. Si riduce ma resta molto consistente l'indebitamento finanziario netto, meno 813 milioni. Il futuro della compagnia resta così un enorme punto interrogativo. Air France ha reso chiaro che per la partecipazione ad un aumento di capitale vuole un forte piano industriale che preveda il mantenimento delle rotte a lungo raggio, non un loro ulteriore aumento. Oltre a ciò chiede una revisione dell'applicazione degli ammortizzatori sociali. In mancanza di questi elementi il disimpegno è dietro l'angolo. Parigi chiede voce in capitolo. La D di Air France, Alexandre de Juniac, ha reso chiaro che la sua azienda non è stata consultata nelle discussioni sull'avvenire della compagnia italiana. A Roma si brancola nel buio. Il ministro dei trasporti Maurizio Lupi parla della necessità di trovare un altro partner se Air France passasse la mano. E dopo British Airways anche Lufthansa va all'attacco. Ci sono modi legali per aiutare le compagnie aeree in difficoltà, ma ci sono limiti riguardo ai ripetuti aiuti di Stato, denuncia. L'Unione Europea agisca, chiedono da Berlino. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nel frattempo, più in generale, si aggrava il problema occupazionale in Italia. Nuovo record per la disoccupazione a settembre e balzo in avanti per quella giovanile che va al 40,4%. Un dato così non si era mai registrato da quando nel 1977 è cominciato il monitoraggio trimestrale. Il tasso di disoccupazione in Italia a settembre, rileva l'Istat, è salito al 12,5%. 3.194.000 i disoccupati e tra loro tantissimi giovani. Il tasso di occupazione per quelli tra i 15 e i 24 anni è sceso infatti a settembre al 16,1%. In calo di 0,5 su agosto e 2,1 su base annua. Meno di 2 giovani su 10 a settembre, in altre parole, avevano un lavoro, tenendo conto però che in questa fascia di età si collocano anche gli studenti. E anche in Europa le cose non vanno bene. La disoccupazione nell'Eurozona a settembre, comunica Eurostat, ha registrato un nuovo picco del 12,2% con una punta del 24,1 per quanto riguarda quella giovanile. In Spagna il livello è al 26,6, mentre in Grecia al 27,6. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi c'è stato lo sciopero dei bancari, con un'adesione altissima alla protesta contro la disdetta anticipata del contratto da parte dell'ABI. Allora sentiamo le voci di chi ha scioperato a Genova al microfono di Andrea Ferro. L'ultimo sciopero 13 anni fa, cos'è cambiato in questi 13 anni? In questi 13 anni la categoria ha subito grandissimi attacchi, non ultimo e soprattutto questo, cioè la disdetta del contratto nazionale, l'ombrello che garantisce tutta la categoria, per la quale è necessaria una risposta forte che oggi stiamo cercando di dare. Una volta fare bancario era un lavoro da privilegiati o quasi? Una volta, ma parliamo di tanti tanti anni fa, diciamo che poi è rimasta nell'immaginario collettivo questa idea del bancario privilegiato, ma sono parecchi anni che secondo me non è più così. Secondo voi è solo colpa della crisi? Secondo me qualcuno si sta approfittando della crisi e adesso da tempo lo stanno facendo e adesso lo fanno anche i banchieri. In questo caso hanno disdetto il contratto perché così, come gli altri, vogliono diminuire i nostri diritti, vogliono diminuire i diritti che sono stati conquistati da anni e cercare di risparmiare il più possibile per aumentare i loro profitti. E ha paura del futuro? Un po' sì, devo dire la verità. I banchieri ci hanno proprio dato un pugno in faccia a tutti quanti. E adesso cambiamo un po' pagina, siamo sulla cronaca. Il processo d'appello sul delitto di Garlasco dovrà prevedere esami specialistici più approfonditi e una rilettura, una rivisitazione di tutti gli indizi a carico di Alberto Stasi. La lista delle verifiche tecniche e processuali da effettuare nell'appello bis del processo sulla morte di Chiara Poggi è contenuta nelle motivazioni della sentenza che in aprile ha annullato l'assoluzione di Alberto Stasi per l'omicidio della fidanzata. Chiara Poggi, 26 anni, era stata uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, in provincia di Pavia, mentre i familiari erano in vacanza. I giudici della prima sezione penale della Cassazione, presieduti da Paolo Bardovagni, prevedono una rilettura e rivisitazione di tutti gli indizi a carico di Stasi. Mappature delle tracce di sangue sulla scala della cantina, esame del cappello trovato in una delle mani di Chiara e del DNA della ragazza rinvenuto sui pedali della bicicletta di Stasi. Altri riscontri dovranno riguardare la bicicletta da donna della famiglia Stasi e il fatto che Alberto non abbia un alibi per i 23 minuti compresi tra le 9.12 e le 9.35 della mattina del delitto. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci sono delle novità anche nelle indagini per l'omicidio di Yara Gambirasio. Gli esami specialistici sui resti di Giuseppe Guerinoni, morto nel 1999, hanno confermato che l'uomo è sicuramente il padre biologico dell'assassino di Yara. Lo ricordate, la ragazzina di 13 anni che era scomparsa nel novembre 2010 a Brembate di Sopra, vicino Bergamo, e poi il suo cadavere era stato ritrovato 3 mesi dopo. Ma di questo, di questi sviluppi, di questi due casi, parliamo poi con il criminologo Massimo Picozzi. Adesso spostiamoci all'estero con la Siria. L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche ha annunciato la conclusione della prima fase del programma di disarmo in Siria. Il prossimo passo è la distruzione delle armi e delle scorte esistenti. La Siria non può più produrre né utilizzare armi chimiche. Ad annunciarlo è Susan Gauchis, portavoce della missione congiunta OPAC-ONU per lo smantellamento dell'arsenale di Damasco. I team dell'OPAC, l'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche, hanno ispezionato 21 dei 23 siti del paese e hanno accertato lo smantellamento di tutte le installazioni per la produzione e l'assemblaggio di armi. I restanti due siti si trovano in località troppo pericolose per essere ispezionati. commissionati direttamente, ma dall'OPAC assicurano che il loro equipaggiamento era già stato trasferito in altri luoghi controllati. La Gauchis ha poi spiegato che il 15 novembre il consiglio esecutivo dell'OPAC si riunirà per mettere a punto un piano per eliminare anche le scorte di gas tossici in possesso di Damasco e ha ribadito che gli ispettori resteranno in Siria fino al completamento del loro lavoro, previsto entro la metà del 2014. Arianna Filippini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in conclusione il calcio con il posticipo della 10ª giornata in campo Roma e Chievo. Nel giorno dello sciopero dei soldi e del caffè, nella notte delle zucche magiche, la Roma insegue la 10ª vittoria, ovviamente. A proposito di magia e di soldi, c'è chi ha messo in giro la voce di un pool di 5 maghi assoldati, 5.000 euro ciascuno a vittoria, da James Pallotta per far volare la lupa. Dicono anche che la storia l'abbia svelata o messa in giro Claudio Lotito. Le radio romane impazziscono, i siti web esplodono. Controllare anche fonti più accreditate per credere. Ad esempio pagina 56 del Corriere della Sera di oggi. Intanto ci sarebbe anche una partita un po' più vera di questi racconti. Classico testa a coda contro il Chievo e chi crede nella strana magia del calcio sa che queste gare sono le più viscide. Antonio Conte non la vedrà in diretta perché, dice lui, deve uscire a cena con la moglie. Non si sa bene cosa farà Benitez, che non ci sembra il tipo da mascherata di Halloween. Di sicuro Juventus e Napoli stanno al balcone dell'Olimpico, sperando che Cenerentola faccia lo scherzetto alla capolista. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore. Bene, la giornata allora, diciamo, complessivamente è questa. Adesso ci sono gli aggiornamenti per chi sta viaggiando, poi cominciamo a chiacchierare di vari argomenti con gli ospiti. Vi ricordo la pagina Effetto Notte trattino Roberta Giordano, pagina Facebook, e se volete commentare questa dichiarazione di Quagliariello in serata, che ha detto che lui si immagina anche una maggioranza col Movimento 5 Stelle. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, vi ho riassunto la giornata, adesso vi ricordo i titoli dei fatti principali e poi cominciamo a parlare con gli ospiti. Direi che ha una certa rilevanza questa desecretazione dell'audizione dei collaboratori di giustizia Schiavone, che anni fa, nel 97, disse moriranno tutti di cancro nel casertano, a proposito delle ecomafie, ed è una profezia che evidentemente si sta purtroppo avverando. Per quanto riguarda la politica, c'è questa dichiarazione, direi a sorpresa, del ministro del PDL Quagliariello, che dice che immagina, rispondendo a un cronista a Napoli, una maggioranza, sì, stranissima, ma qualcosa che possa coinvolgere anche il Movimento 5 Stelle. Intanto Silvio Berlusconi dice la partita è ben lontana dalla fine e le colombe del PDL si appellano a Pietro Grasso dicendo che il voto non sia palese. Il problema abitativo, movimenti per la casa in piazza oggi con scontri a Roma e dal governo, si annunciano 140 milioni per l'emergenza della casa. All'Italia dal Consiglio di amministrazione fiducia nel futuro, ma gli utili vanno giù nel trimestre e per Air France la compagnia italiana vale zero. Il presidente Colaninno intanto annuncia l'addio. Calcio, c'è la Roma in campo contro il Chievo, vogliamo la 10ª vittoria, così dice l'allenatore Garcia. E saluto Vittorio Emanuele Parsi. Pronto? Vittorio Emanuele, ci sei? Ci sono, buongiorno. Buongiorno. Buonasera. A che fuso sei, Vittorio Emanuele? So che spesso sei all'estero. Comunque, Vittorio Emanuele vede la luce in fondo al tunnel, evidentemente. Docente di relazioni internazionali alla Cattolica di Milano, quindi in genere persona serissima, ma è bello che uno la sera veda anche il giorno. Vittorio, senti, io volevo parlarti della figura di Putin, della Russia, il cui ruolo internazionale cresce sempre di più. Sentivo anche parlare di una cortina di ferro che sta ricreando con i suoi soldati, per come se avesse il sogno di far rinascere l'Unione Sovietica di un tempo. Ma al di là di questo, già c'è stato ieri la classifica della rivista Forbes, la classifica annuale degli uomini più potenti e delle donne, anche se sono 9 su una settantina totale, e Putin per la prima volta supera Obama. In più sentivamo prima, per quanto riguarda la Siria, che dopo 2 anni e mezzo e centinaia di migliaia di morti, con l'intervento di Putin sulla Siria, che sono evidentemente amici, sta riuscendo a far eliminare insieme all'ONU le armi chimiche, perché questa era la clausola, no, per evitare di attaccare la Siria. Quindi cosa significa? Che il ruolo di Putin sta assumendo una dimensione sempre più centrale, sempre più dominante? È possibile che superi anche Obama in questo? Beh, diciamo che in questo momento superare Obama in qualche misura se parliamo dell'uomo più potente del mondo, non è così difficile, perché Obama ha grossissimi un po' in problemi crisi, interni. Ha problemi interni molto forti, cioè non riesce neanche a governare il congresso, per cui è chiaro che in temi di potere personale in questo momento Putin questa difficoltà non ce l'ha, la Duma fa quello che lui vuole. E quindi questo cioè è il Parlamento russo. Sì, esatto. L'altro elemento è quello che tu sottolineavi prima, sulla crisi siriana, diciamo che Putin ha fatto una mossa molto abile, è riuscito a riposizionare la Russia come un paese centrale su questo scacchiere, una Russia che era uscita dal Medio Oriente sostanzialmente con la fine dell'Unione Sovietica, e questo è riuscito a farlo anche in parte grazie ad Assad, perché è stato Assad a offrirgli in qualche modo il destro, fornendogli, spostando lui stesso la crisi siriana sul livello russo-americano, appunto, cioè il livello erede della vecchia contesa sovietico-americana. Della guerra fredda. Esattamente, brava. Questo è stato il punto, perché spostata quel livello di confronto, tutti gli altri interlocutori minori, la Francia, la Turchia, i sauditi, sono usciti di scena, la partita è rimasta a due, e nella partita a due, paradossalmente, Putin è stato trainato dalla mossa azzardata di Obama, e contemporaneamente l'ha cavato in impaccio. Ma la mossa azzardata di Obama qual era esattamente? Ma era quella di inviare una flotta in mezzo al Mediterraneo senza avere in tasca l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza a usare la forza, dimenticandosi che in politica internazionale le alleanze contano, e Putin da settimane andava ribadendo che la Siria era un alleato della Russia, e quindi nessuno si deve azzardare a bombardarlo impunemente. Anche se si considera questa a questo punto una vittoria diplomatica internazionale di Putin, però bisogna sempre tener conto che questa guerra civile in Siria è costata 120.000 morti, tra cui molti bambini, molte donne, quindi persone che certo non avevano nessuna voglia di fare questa guerra civile, e i civili in genere, no? Certo, ma Putin non è che passerà, sicuramente nessuno candiderà Putin al primo Nobel per la pace, ecco, né preventivo né postumo. Però va anche detto che non va dimenticato che alla fine di questa mossa di Putin, il paradosso è che un personaggio losco come Assad è stato lodato da Ban Ki-moon perché sta ottemperando agli accordi, è diventato il garante di questa situazione, l'interlocutore per eccellenza delle Nazioni Unite e della comunità internazionale, e che Kerry, cioè il segretario di Stato del paese che voleva bombardare Damasco fino a 20 giorni fa, ha anche lui pubblicamente lodato Assad per quello che sta facendo. Quindi direi che qualcuno ha giocato le poche carte che aveva al massimo livello, e qualcun altro che aveva tante carte in mano le ha giocate un po' male. Adesso farò una domanda ingenua probabilmente, Vittorio Emanuele Parsi, ma perché Putin non si è mosso prima? Se ne stava tranquillo seduto al televisore a vedere cosa succedeva, e poi tac, tira giù il poker? Come è andata? Perché prima era messo in una posizione molto più difficile. Prima la Russia era l'amica di un regime impresentabile. Poi appunto c'è stata la mossa americana e c'è stata l'offerta di Assad di ottemperare, che è stata, diciamo così, ottenuta formalmente con l'interessamento russo. Putin ha salvato il mondo dalla pace, ha salvato il mondo e la regione soprattutto da un intervento militare che avrebbe avuto effetti disastrosi sull'equilibrio di tutto il Medio Oriente, e in quel momento lui è entrato in gioco. È un po' come a un tavolo di poker, le carte buone puoi anche averle, ma devi giocarle nel momento giusto. Se le giochi troppo presto non serve a niente, se le giochi troppo tardi, beh, troppo tardi. Un'ultima domanda, Vittorio Emanuele. La questione dello spionaggio, dei gadget che Putin avrebbe regalato al G20, ai capi di Stato e di Governo, i caricatori di batteria dei telefonini, le chiavette per i PC, poi sembra che questa cosa sia un po' caduta nel nulla. Secondo te è possibile? Ma insomma, tutto è possibile, però faccio fatica a pensare che la cancelliera Merkel ha bisogno della chiavetta USB regalata lì da Putin, cioè insomma. Sai che i gadget piacciono poi a tutti, quando si va uno anche ricchissimi, vero, prendono che su tutto. I servizi di sicurezza controllino la situazione elettronica che i loro leader si portano indietro, perché diciamo che non è una novità questa, insomma le cinici nei tacchi delle scarpe o le penne con l'antenna intercettatrice c'erano i figli di James Bond, per cui insomma. Li conosciamo noi, vogliamo che non conoscano loro, così avveduti spera, come sono. Se no, bisognerebbe licenziare qualcuno, ecco. Grazie Vittorio Emanuele Parsi, grazie, buona serata. Grazie a voi, arrivederci. Ciao Vittorio. Adesso ce la prendiamo, una pausa con la pubblicità, assolutamente necessaria, e poi altre storie. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccomi qui, Roberta Giordano, sempre con voi. Tra poco parleremo di un digiuno che forse finisce per un grande alto ideale, però vedremo, ci dirà direttamente il protagonista. Però vi ricordo sempre, come dopo ogni pausa, i fatti principali. Partendo dalla politica e dalla dichiarazione del ministro del PDL Quagliariello, che a un cronista di Napoli che chiedeva a quale possibile maggioranza pensasse se dovesse appunto staccarsi da Berlusconi, lui ha detto: quale maggioranza stranissima penso, mi sembra di essere stato chiaro, qualcosa che possa coinvolgere anche il Movimento 5 Stelle. Intanto Silvio Berlusconi fa sapere che la partita è ben lontana dall'essere finita e le colombe del PDL si appellano a Grasso e chiedono che il voto sulla decadenza non sia palese. Il problema abitativo, movimenti per la casa in piazza oggi a Roma con scontri dal governo, intanto annunciano 140 milioni per l'emergenza casa. All'Italia dal consiglio di amministrazione fiducia nel futuro, però intanto gli utili vanno giù nel trimestre, per Air France la compagnia vale zero, nel frattempo il presidente Colaninno annuncia l'addio. E per il calcio questa sera in campo ci sono Roma-Chievo. Com'era la porchetta, Roberto Giachetti, dopo 24 giorni di digiuno? Ah no, lo devi chiedere a quelli che l'hanno mangiata, perché io vado avanti, quindi non te lo so dire, francamente. No, come? Mi ero illusa di vedere che Giachetti oggi si fa una magnata di porchetta al gusto del cibo. Io già la vedevo lì, questo orgasmo di porchetta. Io niente. Tornerò a mangiare quando il Senato avrà approvato un testo di legge, quindi ci vorrà del tempo. Quindi integerrimo. Roberto, l'onorevole Roberto Giachetti, del PD, vicepresidente della Camera, come vi ho detto, fa da 24, giusto? Ho fatto bene il calcolo? 25 oggi. 25, avevo perso un giorno, di digiuno reiterato. Perché sia cambiata, questa è la sua battaglia civile, perché sia cambiata la legge elettorale. Quindi io la immaginavo appunto che lei se lo mangiava questo porcellum che lo rielaborava. Perché a me risulta che l'hanno cambiata? No, che lo voleva distruggere dentro di sé, insomma, mangiandolo, azzannandolo, invece niente, ha resistito. L'abbiamo solo distribuito, sì. Era il No Porcellum Day oggi. E quindi questa iniziativa che ha raggiunto consensi piuttosto trasversali, no, Giachetti, sì. E sono venuti a mangiare in piazza questa porchetta a Roma? Sì, no, in realtà quella in piazza era stata organizzata dai riformatori di segni sostanzialmente a Piazza del Pantheon. Noi abbiamo fatto un'altra iniziativa un po' più complessa, compreso questa cosa della porchetta, l'abbiamo fatta da Italy, e non è casuale perché il patron di Italy, che è Oscar Farinetti, sì, è da prima di me sicuramente un accanito nemico di questa legge elettorale, ha fatto delle grandi battaglie su questo e quindi abbiamo scelto come luogo ideale proprio Italy. Sostenitore tra l'altro Farinetti di Renzi, come anche lei è un renziano, no? Già che ti si sì, può dire io, senza nessuna remora tranquillamente. Sì, no, io sono un deputato del Partito Democratico, ma sicuramente appoggio Renzi. Il 18 agosto scorso, se non sbaglio, al meeting di Rimini, il presidente del Consiglio Letta del suo partito aveva promesso che entro cosa? Un mesetto? Ottobre. Entro ottobre. Quello che oggi abbiamo fatto, no, Porcellum Day. Quindi c'era la scadenza oggi, nel senso che non è cambiato diciamo, nulla. Questo spazio doveva occuparlo appunto qualcun altro che ha annunciato che entro ottobre almeno al Senato ci sarebbe stato un testo di legge. In realtà al Senato ancora non c'è nulla, ci sono solo chiacchiere ma neanche un pezzo di carta, quindi purtroppo è complicato non essere pessimisti ed è per questo che ho deciso di prendere questa iniziativa non violenta, perché evidentemente c'è bisogno di qualcosa di più. Giachetti, secondo lei, così lo facciamo sapere ascoltatrici e ascoltatori, tra l'altro sappia che mi scrivono Effetto Notte dalla Germania, dalla Francia, dagli Stati Uniti, perché dicono che ascoltano ogni sera Effetto Notte per sapere cosa succede in Italia, quindi sappiate che Roberto Giachetti è ancora abbastanza in forma nonostante tutto. Io mi chiedo come fa a rimanere lei lucido dopo tanti giorni, sarei già scomparsa. Perché guardi, invece quando c'è determinazione, queste cose non si fanno. Io non sono mai stato capace di fare una dieta, per essere chiari. Non ne ha bisogno, perché fa concorrenza a Fassino, lei se lo faccia dire. No, però diciamo, ecco, per fare queste cose bisogna avere una grande convinzione interiore e una grande determinazione. Io per il momento ce le ho e vado avanti su questo. Poi vado avanti con tante cose belle che mi capitano tutti i giorni ormai, di persone che si mobilitano insieme a me, poche che mi chiedono di smettere e tante che mi chiedono di continuare insieme, quindi sono cose molto importanti per chi fa politica, soprattutto in un momento così difficile della politica. E a questo proposito, Giachetti, lei ha detto poche persone che chiedono di smettere, al governo qualcuno del governo le ha detto basta Roberto, mangia, diciamo che al governo probabilmente questa iniziativa come quella che presi a maggio per fare la mozione per chiedere di passare al Mattarellum probabilmente creano un po' di problemi, ma io lo capisco, però io so che sia Enrico Letta che tutti i ministri, noi abbiamo fatto una campagna elettorale spiegando alle persone, ai nostri elettori, che avremmo cambiato questa legge elettorale. E lei sa perfettamente, gli ascoltatori lo capiscono, che se 15 giorni fa le cose fossero andate in un modo diverso, noi saremmo andati a votare col Porcellum. Se adesso che restiamo da capo a 12 le cose precipitano, noi andiamo a votare col Porcellum. Quindi diciamo, noi non possiamo più permetterci, c'è in ballo, prima delle vicende nostre personali, della tecnica legislativa, la credibilità della politica. Noi l'abbiamo già frantumata abbastanza in questi anni. Adesso io penso che ci vuole qualcuno, io faccio la mia piccola parte, che dica basta. Vogliamo ricordare, scusi Giachetti, perché alcuni magari più interessati alla politica, agli sviluppi eccetera, seguono, no, tra le persone comuni queste questioni, altre a volte non capiscono questo arrovellarsi intorno alla legge elettorale, pensano c'è il problema del lavoro, c'è il problema dell'Italia allo sfascio eccetera. E vogliamo spiegare la gravità e qual è la portata di una legge elettorale in un modo anziché in un altro? Questa legge ha due questioni fondamentali. Sì, il Porcellum ha due questioni fondamentali che sono gravissime. La prima è che è stata sottratta completamente agli elettori la possibilità di scegliersi i loro rappresentanti. E questo, mi faccio fare solo questa parentesi, non è irrilevante anche rispetto ai problemi che lei metteva in evidenza, che non si risolvono, il lavoro, tante altre cose, perché poi la selezione della classe dirigente avviene per esempio per i parlamentari esattamente in questo modo: quando tu hai delle persone che rispondono a quando va bene dei capi partito, quando va male dei capi corrente, è anche più difficile obiettivamente, direi quasi naturalmente, fisiologicamente, che possano effettivamente tenere conto fino in fondo ed essere in grado di risolvere i problemi delle persone normali, perché la loro risposta è quella. E poi l'altra cosa assolutamente che non funziona è esattamente quello che constatiamo in questi mesi, e cioè che non produce una maggioranza, e quindi ci ritroviamo obiettivamente a dover fare dei governi, cioè questo governo è figlio di questa legge elettorale, con il paradosso che poi non possiamo cambiare questa legge elettorale se non accade il governo. Però, diciamo, perché ci sono i ricatti, questo vuol dire, non si può cambiare, sì, perché il PDL dice, come disse ai tempi della mozione, se non si fa che qualche piccola correzione, che nella loro intenzione è anche un modo per peggiorarla questa legge elettorale, perché si porterebbe a un proporzionale puro con le liste bloccate, comunque se non si fa questo noi non siamo d'accordo e cade il governo. E quindi siamo in questa situazione che non a caso, diciamo, si produce. Noi abbiamo il Senato ha votato l'urgenza ad agosto, l'urgenza nella procedura parlamentare vuol dire che hai un mese per fornire un testo all'Aula. Sono tre mesi e siamo fermi e non c'è neanche un testo, ci sono delle cosiddette pillolari, dovrebbero essere dei punti di intesa, che se li va a vedere sono più punti di disaccordo che non d'accordo. Capisce perché una persona che crede di dover fare determinate cose alla fine non può che ricorrere a questi strumenti, perché quelli normali purtroppo sono incagliati nella politica, che poi purtroppo tanta gente ritiene essere non più credibile. Quindi diciamo il succo, l'essenza cose, dell'importanza è che la selezione della classe dirigente e politica avviene attraverso la legge elettorale, loro, in questo caso il Porcellum. Le preferenze, i collegi, quello che vogliono loro, ma l'elettore deve avere il diritto di esprimere il proprio eletto. Col maggioritario seconda, doppio turno, che è quello di modello di Renzi? Renzi individua in un'espressione felice la legge dei sindaci, perché non c'è dubbio che tutti noi ci rendiamo conto perfettamente, quando andiamo a votare per le amministrazioni comunali, che alla fine, al momento, la gente le sceglie i propri rappresentanti, perché va con la preferenza e sceglie il proprio consigliere comunale, e soprattutto però la sera del voto si sa chi ha vinto e chi governa per 5 anni, gli altri si attrezzano per 5 anni all'opposizione per scalare, come è successo a Roma per esempio, che c'è stato Alemanno, il centro-sinistra è stato all'opposizione, ha vinto l'elezione e adesso governerà per 5 anni Marino. Funziona così ovunque, e soprattutto lì è evidente che se uno è bravo viene confermato e premiato, se uno non è bravo vincono quegli altri. Non è difficile, è una cosa, diciamo, che funziona. Ecco, lui dice facciamo la stessa cosa per quanto riguarda il livello nazionale, non è difficile da raggiungere. Io però non dico quello che piace a me, io quello che piace a me l'avevo detto e me l'hanno bocciato, dicendo che era ero prepotente, che era una bandierina. Benissimo, io non faccio uno sciopero della fame perché passi la mia proposta, faccio uno sciopero della fame perché loro devono onorare gli impegni che hanno preso con gli elettori, la facessero come vogliono loro, deve rispondere a queste due esigenze, poi facessero come pensano sia meglio loro, io faccio perché loro rispettino gli impegni presi. Poi io purtroppo ho perso, me l'hanno bocciata, ne prendo atto, non è che posso pretendere, in quel caso sarebbe un ricatto se io pretendessi con lo sciopero della fame che passasse la mia proposta, la mia è stata bocciata, io prendo atto, in democrazia è così, la facessero loro, però la devono fare. Ma lei diceva, quindi giova al PDL, che non la vuol cambiare se non con piccoli ritocchi, forse anche il movimento, forse anche Grillo tutto sommato ritiene di... Ma guardi, non c'è dubbio che anche Grillo soprattutto diciamo a Grillo Giova, che non facendola ovviamente si gonfia, perché è chiaro che potrà dire cosa hai visto, l'hanno promesso, la fanno, e via dicendo. A Grillo conviene, perché Grillo ovviamente un proporzionale puro conviene, perché ci lucra di più, ma questo diciamo dal suo punto di vista è anche coerente. Non è, me la posso prendere con Grillo, sì, me la prendo con Grillo perché ha detto pure lui in campagna elettorale che bisognava cambiarla, solo che poi Grillo risponde: ma io almeno quando c'è stata la mozione Giachetti l'ho votata, e io ho un po' di difficoltà a dire che non è vero, perché non è che non è vero, è vero. Quindi cos'è? Solo una parte PDL e anche una parte del cioè siete solo voi renziani che volete questa alla fine? No, dica, guardi, Giachetti, per fortuna diciamo da quando Renzi a Bari ha presentato la sua candidatura alla segreteria ha fatto della legge elettorale, della riforma della legge elettorale, uno dei punti essenziali del suo programma, e ha determinato un dibattito che non si era ancora verificato dentro il PD, per cui il PD adesso ha scelto una linea bipolare. E quindi diciamo da questo non torniamo indietro, perché rischiava di essere come dire in qualche modo dispersa nell'aria questa. Invece no, adesso il PD ha una chiara posizione, dopodiché è chiaro che bisogna trovare un punto di mediazione. Benissimo, allora non sarà il maggioritario? Sarà la proposta, la sintetizza quella che fa Dalimonte, cioè dicendo esattamente come accade per i comuni, ci sarà un primo voto in cui si votano le liste col proporzionale e con le preferenze, poi però per poter avere la governabilità le due coalizioni che hanno preso più voti vanno ad un ballottaggio e quella che vince prende il premio di maggioranza alla Camera e al Senato, e così avrà la garanzia di poter governare per 5 anni. Semplice anche questo. Io penso che quello possa essere, non è la mia proposta, come vede, quindi non è che pretendo, però penso che quello potrebbe essere un punto di mediazione. E su quello, peraltro, ci sono ormai espressioni. Lei citava alcuni che erano presenti oggi alla manifestazione, che erano Giorgia Meloni, c'era Crosetto, ci stava Alemanno, ci sta Shell, ci sta Lista Civica, addirittura l'appello in sostegno, a sostegno di una scelta come quella dei sindaci è stato firmato da Flavio Tosi della Lega. Di Verona, dire, siete in tanti, esatto. Volendo. No, quindi voglio dire, le condizioni politiche ci sono. È chiaro che se si pretende che la riforma elettorale, che dovrebbe riguardare tutti, deve essere fatta con la maggioranza più ampia possibile, sia circoscritta alla maggioranza di governo, allora sappiamo perfettamente che non la faremo mai. Ma allora non si dica che cambiamo la legge, perché allora è inutile che illudiamo le persone se poi non siamo in grado di farlo. Che ne pensa Giachetti di Quagliarello, che questa sera ha detto a un giornalista a Napoli, rispondendo a quale maggioranza sta pensando, dice anche una maggioranza che possa coinvolgere il Movimento 5 Stelle? A parte il Movimento 5 Stelle penso ci starebbe mai col PDL, non c'è stato col PD, penso tantomeno col PDL, ma è un'affermazione un po'... Quagliarello ne dice tante ed è tra i più seri, quindi si figuri che cosa vuole. Siamo a posto allora, possiamo essere in ottime mani. Senta, l'ultima cosa, il PDL dopo una serie di tappe politiche di questi giorni, l'elezione della Bindi all'antimafia, poi ieri sul voto palese, il PDL accusa il PD di volere andare al voto. Renzi mi dà un po' l'impressione di voler andare al voto, lei? No, guardi, io non penso che Renzi vuole andare al voto. Renzi dice una cosa diversa, che penso che quella che pensano tante persone con una media capacità di ragionare, cioè questo governo ha senso se riesce a fare delle cose, se non riesce a fare delle cose non ha alcun senso. Ora il problema qual è? Ve lo ricordate? Un mese fa, il 2 ottobre, sembrava che tutti i problemi fossero risolti, che eravamo pronti, arrivava la legge di stabilità, l'IMU, l'IVA, bim bum ba, e tutti quanti ci eravamo diciamo assestati su questa posizione. Se lei chiude gli occhi e li riapre, oggi in che condizioni siamo? Siamo esattamente come nel gioco dell'oca alla casella di partenza, e cioè il PDL che accusa il PD per la cosa in Parlamento su Berlusconi, e quell'altro che si alza e dice la mattina: no, questa legge di stabilità fa schifo, allora noi usciamo. Cioè siamo ritornati a un circo, e purtroppo è un teatrino al quale la politica sempre più ci abitua, che non fa bene a nessuno, a mio avviso non fa bene neanche a Letta, soprattutto a Letta, che indubbiamente si è preso il carico, la responsabilità di cercare di risolvere il problema. Allora Renzi dice una cosa semplice: o il governo è in condizione effettivamente di fare concretamente delle cose di cui ha bisogno il paese e di cui hanno bisogno gli italiani, e allora assolutamente sì, massimo sostegno, oppure tenere una sorta di fiammella che va sempre più spengendosi, è anche un fatto di logoramento. Quindi non è che lui dice di andare alle elezioni, ma mi pare che il problema delle elezioni lo sollevino un giorno sì e un giorno no, soprattutto nel PDL, soprattutto Falchi, Colombe, non so, Gabbiani. Roberto Giachetti, vi dica solo una cosa adesso, a tu per sì. Tu, ma lei dopo 25 giorni, per mantenersi comunque così lucido con questa parlantina, con questa presenza di qualcosina, un cappuccino come faceva Pannella, tra l'altro lei è stato passato radicale. Assolutamente, io tre cappuccini sono è dichiarato, io prendo tre cappuccini, sostituisco i pasti con tre cappuccini. Dopodiché qualcos'altro. E chi dovrei prendere una fetta in giro? Di prosciutto crudo, ma secondo lei io a chi dovrei prendere in giro? Cioè, se io mangiassi una fetta di prosciutto o mangiassi una bistecca, a parte il fatto che se lei mi vedeva 25 giorni fa no l'ho vista, la vedo in televisione, l'ho visto, ma io a chi devo prendere in giro? Sì, ha ragione. Giachetti, però, proprio perché lei non prende in giro, sappia che ci risentiamo tra un po' di giorni, perché sennò finisce che noi digiuniamo per fare in modo che non digiuni più Giachetti. Ma lo sai che ce ne stanno 350 di persone oggi che stanno digiunando in sostegno alla mia iniziativa. Un digiuno a catena. Beh, sì, si chiama staffetta, l'hanno chiamata staffetta, persone che io non conosco fisicamente, che si sono e che hanno messo un cartello, si sono fotografate e hanno mandato. Se lei va sulla mia pagina Facebook troverà 180-190 persone che si sono fotografate, anche io oggi digiuno contro il porcellum. Ha citato la pagina Facebook, c'è anche quella di Effetto Notte, dove c'è un ascoltatore, Barney Alessandro, che scrive a proposito di quagliarello: prima si diceva fare il salto della quaglia, ora si dice il salto del quagliarello. Non so se le piace. Bravo, comunque. Allora, Roberto Giachetti, mi raccomando, vi ringrazio moltissimo, cerchi ringrazio molto. Il prima possibile di chiudere questo digiuno, di riprendere con le basi nutrizionistiche, va bene. Mantiamo stretto il Senato, grazie infinite comunque per lo spazio. A lei, grazie ancora, grazie Giachetti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E a proposito di notizie, vi ricordo prima le principali e poi il prossimo ospite. Sempre la politica in primo piano, con Berlusconi che dice la partita è ben lontana dall'essere finita. Le colombe del PDL intanto si appellano a Pietro Grasso chiedendo che non sia palese il voto sulla decadenza dell'ex presidente del Consiglio. E poi c'è la dichiarazione di Quagliarello questa sera, ministro del PDL, che risponde a un giornalista a Napoli e dice: quella maggioranza stranissima, penso, mi sembra di essere stato chiaro, qualcosa che possa coinvolgere anche il Movimento 5 Stelle. Problema abitativo diventa un'emergenza, movimenti per la casa oggi in piazza, scontri a Roma e dal governo c'è un annuncio di 140 milioni che arrivano per questa emergenza. Calcio questa sera, la Roma in campo contro il Chievo, vogliamo la decima vittoria, dice così l'allenatore Garcia. E come avevo annunciato, parliamo di cronaca, di due casi di cronaca nera molto controversi, di cui si è parlato moltissimo, che ritornano un po' in primo piano, con Massimo Picozzi. Massimo, buonasera. Buonasera. Famosissimo criminologo. Allora, il caso di Yara, la ragazzina di 13 anni che era scomparsa nel novembre 2010 a Brembate di Sopra, vicino Bergamo, il suo cadavere poi era stato ritrovato dopo 3 mesi, una storia infinita, con questa novità, che anzi una riconferma, si parla del un DNA su un uomo morto nel 1999, attraverso di questo si ritiene che un figlio illegittimo di quest'uomo sia il vero assassino di Yara. Poi parliamo anche, se riusciamo, di Garlasco. Com'è possibile? Mi sembra molto complessa questa cosa, ma tu che sei addentro queste vicende, Massimo. Sì. Allora, diciamo che tutto sommato sul corpo di questa povera ragazza trovata 3 mesi dopo la sua morte sono state trovate delle tracce certamente in una posizione di provenienza che dicono che soltanto l'assassino poteva lasciare quelle tracce. Hanno iniziato a fare prelievi del DNA e per similitudine si è arrivati a identificare il padre. Il padre di questo ragazzo però non aveva mai avuto dei figli riconosciuti e quindi naturalmente quel figlio, certamente dimostrabile il figlio di questo uomo, era un figlio legittimo. A questo punto siamo però nell'impasse più totale, perché dato che l'uomo non ha dato mai segno di questa relazione extraconiugale, occorre trovare la madre. La madre però potrebbe tranquillamente essere una donna che 40 anni fa ha avuto il rapporto di una sola notte con quest'uomo, per cui è estremamente difficile. Siamo andati anche avanti e abbiamo potuto, mandando queste tracce molto ma molto piccole, esigue, siamo arrivati anche a dire che questo assassino ha gli occhi castani. Ma puoi ben capire come in realtà in un territorio vasto milioni nord, e milioni di sì, persone. Sì, questo non risolva poi granché. Il problema è che naturalmente io in questa vicenda di Yara trovo una similitudine con i temi solitamente trattati da Radio 24, nel senso che c'è dietro una trappola cognitiva, dietro questa indagine di Yara Cambiaso, che è la stessa che colpisce molto spesso i manager, quella la trappola dei costi sommersi. cioè anziché tutto sommato fermarsi e dire ma abbiamo motivi per andare avanti a fare prelievi all'infinito, oppure dobbiamo farli soltanto perché ne abbiamo già fatti decine di migliaia. Infatti credo che tutta a tappeto la popolazione di tutta la Lombardia sia stata, sì, no? Sì, sì, beh, intorno si è arrivati a un costo per le indagini che è vicino al milione di euro per una singola indagine, quindi sono costi. Tu sei pessimista su un esito definitivo, sì, di questa faccenda, Massimo? Assolutamente sì, nel senso che l'unica possibilità è che questo assassino incappi nella maglia della giustizia per qualche altro reato e a questo punto ci sia un possibile confronto tra il DNA che abbiamo già in casa e quello che lui potrebbe lasciare. Peraltro siamo insieme forse a Cipro o alla Turchia, l'ultimo paese d'Europa che non ha una banca dati del DNA. Questo è gravissimo, infatti, è veramente... Questo è gravissimo, oltretutto poi francamente non si capisce, al di là dei problemi economici, ma che non sono eccezionalmente rilevanti, non si capisce perché qualcuno ha fatto eccezioni sulla privacy. Ma quelle parti del DNA, quelle regioni che servono per identificare, sono delle regioni del nostro patrimonio cromosomico che non codificano per nessuna informazione, sono delle zone neutre che quindi non possono dare informazioni sul nostro assetto genetico o sulle future malattie, quindi senti, è Massimo, veramente incomprensibile. Infatti è incomprensibile. Massimo Picozzi, in quei due minuti che ci rimangono invece la questione Garlasco, anche quella piuttosto complicata, no? Con Alberto Stasi unico indagato, assolto in primo grado, in appello però la Cassazione ha chiesto che sia rifatto il processo. Una premessa essenziale e necessaria è che in tutti i paesi occidentalizzati, tutti i paesi cosiddetti avanti, la percentuale di delitti irrisolti è mediamente uniforme intorno al 35-40%. Ah, per tutti. Per tutti. Quindi che sia successo in Germania, in Francia, in Spagna, negli Stati Uniti. Non siamo noi che siamo indietro. No, da 3 casi e mezzo su 10 non vengono risolti. Il problema o il disastro avviene in tutti questi casi, ma se ci fai conto sono proprio tutti quelli di cui si parla sempre, in cui assassino presunto e vittima si frequentavano e si conoscevano. E quindi trovare le tracce, ad esempio, di Raniero Busco sul corpo di Simonetta Cesaroni di Apoma, trovare quelli di Salvatore Parolisi sul corpo di Magnarea, che era la moglie, o questo caso di Garlasco, trovare tracce di Alberto Stasi sulla scena della fidanzata che era poi. È molto facile, dice, quindi. Non è discriminante, perché poi adesso la Cassazione ha chiesto di rivalutare, ad esempio, le tracce sui pedali della bicicletta, se c'è del sangue, se appartiene a Chiara. Ma naturalmente il problema è che non siamo in grado di dare una data al DNA. Se noi troviamo una traccia di DNA, non sappiamo dire se lì c'è finita un mese fa o 10 anni fa. Quindi insomma molto pessimismo e comunque un male comune questo di non riuscire a risolvere tanti delitti. Sì. Massimo, sì, per i prossimi, se ci fossero delle prossime novità, naturalmente se tu sei disponibile, ci ritroviamo qua, certo. Fatto note. Grazie Massimo Picozzi. Grazie a voi. Ciao, grazie. Buona serata. Ciao. E adesso invece vorrei parlare con Roberto Escobar, filosofo politico e critico cinematografico dell'Espresso. Ciao Roberto, buonasera. Ciao. Di Fellini, il ventennale della morte di Federico Fellini, un regista che ha segnato non solo la storia del cinema, ma la storia italiana e anche internazionale, perché è conosciuto anche nel mondo. Come lo ricorderesti tu, Roberto, 20 anni dalla morte di Federico Fellini? Ma io lo ricorderei rivedendo un suo film, tanto. E magari rivedendo Marcord, che non è considerato il suo più grande, ma che io invece considero il più profondo, il più poetico. Diciamo che è stato il grande narratore della memoria, che trascorrendo gli anni ha saputo trasformare le angosce, le durezze, i problemi diciamo della prima parte della sua poetica in leggerezza, in maschera e appunto in ricordo. Lo ricorderei così, come il poeta del ricordo, scusate il bisticcio. Del ricordo e del sogno, perché i suoi film avevano questa cifra sempre onirica, no? Sì, sì, ma lì non si capisce, nel cinema di Fellini non si capisce dove finisca il sogno, dove comincia la realtà è trasformata in sogno e il sogno diventa realtà. Basta pensare al tratto da Petronio, mi sfugge il titolo. Quali sono? Sono 8 e mezzo, la strada? No, quelli ambientati nella Roma classica. Adesso non mi viene in mente, però ricordiamo che ha avuto 5 premi Oscar, certo. Fellini, una Palma d'Oro, 12 nastri d'argento. 4 premi Oscar e uno alla carriera, che forse è quello anche più gradito. Senti, proprio in questi 30 secondi che ci rimangono, secondo te Fellini è abbastanza ricordato in Italia? Per esempio, film in televisione difficilmente se ne vedono. Direi che è un problema della televisione questo, che ama non ricordare i grandi, né del cinema né del teatro. Diciamo che sì, rispetto ad altri è abbastanza ricordato, nessuno più ricorda Pasolini per esempio, nessuno ricorda altri grandi come lui. Non è ricordato a sufficienza, insomma, è stato il nostro più grande intellettuale del secolo possiamo ben dirlo, credo, sì. Roberto Escobar, ti ringrazio e ti saluto. Ciao Roberto, buonanotte, grazie. Noi prima di darci la buonanotte una pausa, ci vediamo tra poco.